577. Torta mantovana. Farina, grammi 170, zucchero, grammi 170, burro, grammi 150, mandorle dolci e pinoli, grammi 50, uova intere numero 1, rossi d'uovo numero 4, odore di scorza di limone. Si lavorano prima per bene col mestolo entro una catinella le uova con lo zucchero. Poi vi si versa poco per volta la farina, lavorandola ancora, e per ultimo il burro liquefatto a bagnomaria. Si mette il composto in una teglia di rame, unta col burro e spolverizzata di zucchero a velo e farina o di pan grattato, e si rifiorisce al di sopra con le mandorle e i pinoli. I pinoli tagliateli in due per traverso e le mandorle, dopo averle sbucciate con l'acqua calda e spaccate per il lungo, tagliatele di traverso facendone d'ogni metà 4 o 5 pezzetti. Badate che questa torta non riesca più grossa di un dito e mezzo o due al più, onde abbia modo di rasciugarsi bene nel forno, che va tenuto a moderato calore. Spolverizzatela di zucchero a velo e servitela ghiaccia, che sarà molto aggradita.